24 mattino. Benvenuti, concluderemo il nostro giro con i corrispondenti stranieri nel mondo facendo tappa in Colombia. Infatti anche la Colombia ha una corrispondente da Roma per raccontare questo paese, l'Italia. Carmen Cordoba, buenos días. Buenos días. Senti, sei corrispondente del settimanale colombiano Semana. Di cosa si occupa questo settimanale? Per farla breve, un settimanale che sarebbe più o meno l'equivalente del vostro L'Espresso. È un settimanale soprattutto di opinione, molto letto in Colombia, ma non solo in Colombia, ma anche in Latino America, una tiratura di 1.000.000. Ma l'hai paragonato all'Espresso, però sappiamo che, insomma, in fatto di libertà di stampa, in Colombia la professione del giornalista è una delle pratiche più pericolose in assoluto. Abbiamo quest'altro aspetto molto drammatico, l'esercizio della professione. Ma non soltanto nel giornalismo, purtroppo molte voci libere sono state uccise, quando non sono state uccise sono state minacciate e anche obbligate a lasciare il paese. Tu invece lavori dall'Italia, immagino che quello che racconti dall'Italia comunque non comporta nessun rischio. Che tipo di interesse c'è in Colombia per l'Italia? Cosa sa il colombiano medio dell'Italia? Il colombiano medio è molto ben informato, perché legge molto, perché viaggia anche molto. E dall'Italia sa molte cose e riescono ad andare anche in profondità, perché l'Italia è molto amata per il Made in Italy, per i vini, per il cibo. E l'ultimo articolo che hai scritto, Carmen, cosa riguardava? Sono due gli argomenti degli ultimi tempi. Da un lato le vicende di casa Berlusconi e le politiche sull'immigrazione. Quali aspetti in particolare? Diciamole in poche parole, la deriva molto, molto a destra del governo italiano per accontentare una piccola parte dell'elettorato. Questo in Colombia, ma non solo in Colombia, lo so, anche in Latino America, tiene banco, colpisce molto, impatta, non solo ovviamente i gommoni, che dobbiamo dire l'Italia ha dimostrato un grande senso di umanità in questo senso, ma la chiusura e i discorsi molto a destra degli ultimi tempi, perché l'Italia e in realtà e in generale l'Europa si tende a percepirla più a sinistra, con una visione più aperta, umanitaria del mondo. E queste cose invece lasciano un po' perplessi ai nostri lettori colombiani. Tu hai scritto che ti è capitato a volte di constatare nella tua vita quotidiana di tutti i giorni di essere trattata con un po' di sufficienza, anzi con un po' di razzismo, tu hai scritto, da parte di sconosciuti italiani con cui hai avuto a che fare. Cosa ti è successo? Decisamente. Forse anche situazioni banali che mi hanno dato il senso di questo leggero razzismo di fondo. Non lo so, la prima volta che sono stata in una situazione del genere è stato nella mia vecchia palestra, in coda davanti al tapis roulant. Una donna molto giovane mi ha pregato di tornarmene nel mio paese, perché non avevo nessun diritto di essere in coda al tapis roulant e tantomeno di essere in Italia. È stato uno shock, devo dire, molto, molto forte, che ha minato seriamente la mia pace interiore. E così altri piccoli gesti quotidiani, per esempio questo tu costante dal macellaio al supermercato, certe volte può essere un semplice gesto di familiarità, ma tante altre volte si capisce che è semplicemente perché dovrei essere un gradino più sotto. Senti, noi ci stiamo andando del tu perché lo facciamo sempre così in queste chiacchierate giornalistiche, vorrei precisartelo. No, figurati, sì. Anche io ti sto dando del tu, molto... infatti. No, Carmen, vorrei precisartelo, però capisco benissimo. Non sei la prima, tra l'altro, straniera, che ci segnala come a volte sia decisamente fastidioso, non perché non si voglia dar confidenza, ma perché si capisce che chi lo pronuncia questo tu sta ponendo in realtà delle differenze culturali, perché non lo utilizza con tutti, ma ha delle vere e proprie gerarchie e delle selezioni. E ancora a Roma la vita, hai scritto, è complicata da tutta una serie di manchevolezze, ma la principale sembra essere in generale la mancanza di senso civico. Cosa intendi? È una cosa... Questo, la mancanza di senso del collettivo, tutti hanno a cuore il loro privato, la loro casa deve essere bella, pulita, mentre lo spazio pubblico è terra di nessuno, nessuno se ne occupa e tutti fanno fare i bisognini ai loro cani per strada, buttano il pezzettino di carta per strada, è terra di nessuno e non c'è nessuna predisposizione, nessuna vocazione dell'amministrazione a educare i suoi concittadini, che è una cosa che mi colpisce ancora oggi, perché da noi, forse perché siamo una società giovane, allora c'è questa urgenza di formare, di educare, ci sono in continuazione campagne attraverso i media per invitare alla gente delle derive, troppo egoistiche, sì, delle derive barbare. E invece quello che ti colpisce non è solo la mancanza di senso civico dunque in Italia, ma il fatto che il tutto passi nell'indifferenza generale, ci segnali? Sì, decisamente. E ci sono degli aspetti positivi che ti colpiscono della vita in questo paese? Sicuramente, prima di tutti, sembrerà superficiale, ma è così, è gran parte del fascino di questo paese, la ricchezza enogastronomica. Dall'altro lato, la storia, vivere in Italia, quando riesci a isolarti da questo fatto quotidiano della trascuratezza, e questo paese ha una ricchezza, una storia ricchissima, è bello, e la gente quando è civile è squisita. Tutte queste cose diventano dopo un po' insostituibili. Da quanti anni sei in Italia? Sono in Italia da 15 anni. E tornerai a vivere in Colombia o ormai ti sei stabilita stabilmente qui e pensi di non andartene? Non lo so, sono in un limbo. Non hai ancora deciso. Sì, no, sono un po'. Mi sento a casa in Italia. Ogni tanto mi manca anche il mio paese, ma vorrei anche spostarmi forse in un altro paese, non necessariamente il mio. Grazie, grazie mille per questa conversazione, Carmen. Grazie a te, Irene, buon lavoro. E questa era Carmen Cordova, con lei si chiude un ciclo, la rubrica chiacchierando con i corrispondenti stranieri, e per capire come suona, come appare l'Italia vista da persone che certo ci vivono, certo la devono scandagliare ogni giorno per lavoro, a contatto con il mondo politico, culturale, sociale e non solo, ma d'altra parte sono portatori di paradigmi e di culture diverse. Ci hanno detto cose molto interessanti in questo mese di agosto, ma sono tornate naturalmente delle variabili, si potrebbero chiamare così, in realtà sono delle costanti. Hanno denunciato infatti la scarsità di senso civico, i grandi problemi dati dalla burocrazia, ma anche gli orari improbabili per chi vive fuori dei ristoranti. Per esempio, a molti stranieri risulta incomprensibile perché non si possa mangiare a certe ore del giorno o della notte in metropoli come la capitale. E soprattutto è tornato spesso l'elogio al carattere degli italiani, alla giovialità, alla socialità, alla possibilità di fare amicizie in mezz'ora, come ci hanno segnalato in molti. E la tristezza della mancanza d'orizzonti, ci ha detto il corrispondente dall'Irlanda, ma non solo, tornando poi su un famoso articolo pubblicato qualche tempo fa dal New York Times, i giovani italiani, nonostante i media più preparati, meno alcolizzati, anche se sono tutti naturalmente dei paradigmi relativi, dei loro coetanei, non hanno quell'entusiasmo che dovrebbe scatenare l'azione, non hanno quelle prospettive, quella sensazione di futuro che dovrebbe anche renderli felici e un pochino aggressivi nel senso positivo del termine, aggressivi verso le proprie ambizioni e aspirazioni. Questo quanto è emerso da questo viaggio all'interno degli osservatori, coloro che poi ci raccontano al mondo e ci raccontano nel resto del pianeta, molto più a volte che le stesse autorità diplomatiche, molto più dei nostri giornali che sono accessibili solo a chi parla l'italiano. 26 minuti trascorsi dopo le 8, si conclude dunque un ciclo anche a 24 mattino. Da lunedì la programmazione ritornerà quella di sempre e tornerà il conduttore Alessandro Milan. La giornalista purtroppo ragione, si riferisce alla giornalista colombiana Carlo che ci scrive da Torino, la maleducazione è mediamente troppa. 349-238-6666, pensa al tuo disastrato paese, invece gli risponde piccato Luca che non accetta consigli da chi viene da fuori. E c'è questa spaccatura non solo negli sms degli ascoltatori ma proprio in generale nella nazione. Lo si è visto anche ieri quando è scoppiato ancora una volta il caso su Facebook, riguarda la Lega e gli immigrati clandestini. Tortura al clandestino sul sito di una sezione veneta ha fatto scoppiare delle reazioni clamorose. In realtà poi si è rivelato un gioco, è la satira che non prevede poi di essere superata dalla realtà, perché la vignetta risale al 2004 ed era nata come provocazione. Era proprio la vignetta, una vignetta antirazzista di un vignettista che immaginava naturalmente di far satira, di esagerare con questo manifesto in cui si dice da parte della Lega torturare il clandestino è legittima difesa. In realtà 5 anni dopo un manifesto così passa per vero. Carte scritte, promesse, niente più. Carte scritte e basta, non cederemo più. E che vengono altri paesi pure, che tutti bravo, quelli, Riesi, tutti di Riesi, Barra Franca, Mazzarino e, oggi e tutti gli altri paesi dell'intorno che si servono dell'ospedale e che ci sono degli infermieri che lavorano all'ospedale e pure i dottori che vengono tutti a farci unione perché siamo soli qua. Noi vogliamo garantito il diritto alla salute con il mantenimento del presidio ospedaliero rimodulato, discutiamone, però si discute a bocce ferme. L'assessore Russo revoca immediatamente il decreto, venga a Mazzarino e venga a discutere con questi civilissimi cittadini su cosa fare dell'ospedale di Mazzarino. E queste le voci dalla protesta che arrivano da Mazzarino, era un servizio della televisione di Caltanissetta TFN. La morte di un giovane rimasto ferito gravemente in un incidente stradale e che i medici non avevano potuto soccorrere. Perché? Perché la sala operatoria dell'ospedale del paese è chiusa e questo non si allaccia a una vicenda di risanamento e quindi di declassamento che dovrà portare alla chiusura totale dell'ospedale, ma in realtà questa vicenda è slegata, è parallela, cioè è chiusa per ferie, non c'erano dei chirurghi e questo ha scatenato a Mazzarino la protesta dell'intero paese. Tutti i negozi sono stati chiusi, i dimostranti hanno occupato la strada 626, cioè la Caltanissetta Gela, e a scatenare la rabbia è stata la vicenda di questo giovane Filippo Ligambi di 23 anni che aveva avuto giovedì un incidente con la motocicletta, si era tranciato una gamba nella caduta, era stato trasportato all'ospedale del paese ma i medici proprio per la chiusura della sala operatoria non avevano potuto intervenire, l'avevano fatto trasferire al Sant'Elia di Caltanissetta ma a causa della distanza, probabilmente a causa dell'imponente emorragia, comunque i magistrati hanno aperto un'inchiesta, il giovane ha perso la vita. vita. Ne discuteremo nel corso di 24 mattino. 349-238-6666 per i vostri interventi, perché non si inizia dall'asilo a fare educazione civica. Mi allaccio a quest'ultimo messaggio di un'ascoltatrice, lei si chiama Marina e si allaccia alla questione delle barbarie o del linguaggio barbaro, come è stato definito. Chiariamo un punto: l'ultimo episodio, il caso Facebook, è un caso controverso, cioè dopo il gioco Rimbalza il clandestino, ideato da Renzo Bossi, il figlio di Umberto, comparso, subito tolto da Facebook, ieri un'altra polemica. E un secondo incidente di percorso lo definisce la Lega, perché appare questa pagina su una sezione locale, una pagina che farneticante, sul profilo Facebook della sezione di Mirano, in provincia di Venezia, della Lega Nord, si vede il simbolo della Lega con la scritta "torturare i clandestini è legittima difesa". E tra i 400 amici, sapete che Facebook permette di intrattenere un rapporto personale con quelli che vengono definiti amici, compaiono anche i nomi di Cota, Roberto Cota è il capogruppo della Lega alla Camera, e di Umberto Bossi. E arriva immediata la replica della Lega: siamo di fronte a una vera e propria truffa, qualcuno si è spacciato per leghista intestando una pagina Facebook a una sezione della Lega che abbiamo verificato non corrisponde, ed è stato utilizzato un manifesto patacca che la Lega non ha mai ideato né mai stampato. E questo naturalmente va detto e ripetuto. È ancora peggio, perché non è un manifesto patacca, è un manifesto satira che nel 2004, quando è stato ideato, scatenava le risate, tutti l'avrebbero immediatamente probabilmente identificato. Oggi no, oggi può passare per vero. Buongiorno a questo punto a un docente di diritto, pubblico all'Università di Roma, anche editorialista della Stampa, Michele Ainis. Buongiorno professore. Buongiorno. E l'abbiamo scomodata perché ieri si è parlato spesso di istigazione all'odio. Innanzitutto le devo chiedere, visto che lei è un esperto di diritto, quando è che si configura questo reato? Ma noi abbiamo una normativa, che la legge Mancino risale al 93, e che poi per la verità amplia una precedente legge del 75, e questa normativa punisce l'odio per motivi razziali, per motivi etnici o per motivi religiosi. E punisce perciò chi diffonde delle idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale, e qui ci sono anche delle pene severe. E in questo caso, e in casi come quelli di appunto una piattaforma digitale o Facebook, trova che si configuri queste circostanze che lei ci ha appena indicato? Dunque, intanto il mezzo in sé non è, anzi Facebook e in genere tutti i veicoli che viaggiano su internet hanno un'ampia diffusione, e quanto più il messaggio si diffonde tanto più determina, no, degli inocula degli effetti nocivi, quindi non è un salvacondotto internet, semmai è più complicato risalire ai responsabili. E poi nel caso di specie è anche complicato capire quale sia il discrimine tra la satira, lo scherno, lo sberleffo e invece un'azione delittuosa, perché qui noi abbiamo da un lato la libertà di parola, che è sacrosanta, cioè questi reati di opinione, perché di quello stiamo parlando, sono previsti un po' dovunque, si sono diffuse anche in Europa delle normative contro il negazionismo, per esempio contro coloro che sostengono che i forni crematori per gli ebrei non esistevano, e allora questi vengono castigati. In Italia noi abbiamo un codice penale che risale ai tempi del fascismo e che contempla molti reati di opinione, poi la Corte Costituzionale ha fatto un po' di pulizia, ma altra ce ne sarebbe ancora da fare. E a questo poi si è aggiunto appunto la legge Mancino, peraltro c'era anche una convenzione internazionale che risale al 65, che è stata siglata da un po' tutti gli stati, non dagli USA, che vieta l'incitamento ad atti di violenza o di discriminazione per motivi razziali. Quindi insomma, ma in paesi dove si è attenti a queste cose, e per fortuna devo dire, perché sono paesi dove spesso gli italiani sono emigrati e quindi le hanno subite all'inizio, poi la legislazione in genere è evoluta, penso ai paesi anglosassoni, e quindi gli italiani non avrebbero mai potuto integrarsi e prosperare senza accantonare pregiudizi a loro rivolti. Non solo è vietato il riferimento nelle notizie, per esempio, alla nazione di provenienza, anche in casi di killer o criminali, cioè non si direbbe mai, adesso faccio il caso personale, Irene Zerbini, canadese di origine italiana, ha sterminato, è autrice di una strage. No, cioè, per quanto odioso possa essere il crimine, per quanto recente possa essere l'arrivo di questa persona nel paese, è vietato alcun riferimento. Ma non solo non c'è una legge, ma è un fair play. Ma non è nemmeno questo un patrimonio di destra o di sinistra, cioè non c'è mai una destra che invoca il cambio di questo senso civico. Per quello fa impressione in Italia assistere a certi schieramenti ideologici improbabili, per cui se ci si appella al rispetto di diritti civili si viene subito classificati politicamente. Questa è un po' un'anomalia, una deriva. No, c'è senz'altro un fatto culturale che ci separa dai paesi anglosassoni e non certo a nostro vantaggio. Basta vedere un TG, se qualcuno finisce sotto una macchina, tu trovi automobilista uccide un passante, ma se l'automobilista è uno straniero ti dicono che un rumeno ha ucciso un passante, no? Per esempio. Chiaro, chiaro. Devo anche dire che poi insomma c'è sotto traccia un pregiudizio, ma già nella parola, quando noi chiamiamo extracomunitari quelli che vengono da paesi che stanno fuori dall'Europa, questo è un modo per identificarli cominciando dalla nostra identità, no? Sarebbe come se io che sono italiano venissi chiamato extraamericano, non so. Ma io sono c'è italiano. Una grandissima differenza linguistica, esatto. E anche sempre per far riferimento a questo, perché vengo sollecitata a volte dagli ascoltatori, oggi è l'ultima puntata a parlare, io ho sempre vissuto in Canada negli ultimi 12 anni, c'è una bella differenza tra chiamare chi viene dall'estero extracomunitario o nuovo canadese, un nuovo italiano, perché a un certo punto questo entra nella cultura, a forza di non notare il paese di provenienza della persona con cui hai a che fare, cominci per trascurarlo completamente, anche in caso di fervore o alterco. Per cui c'è proprio un cambio nella mentalità collettiva, si può dire, e lo si può notare, per cui il linguaggio è importantissimo. In questo caso, ultimo episodio, professore, la Lega prende le distanze perché non sembra a questo punto che siano stati dei membri della Lega autori di questo manifesto, eppure l'episodio sembra si innesti su sia l'ultimo di una serie. Per quello risulta credibile. È perché c'è un clima, c'è un brodo culturale in cui purtroppo nuotiamo, che deriva dalla nostra difficoltà ad accettare la contaminazione culturale che deriva dall'emigrazione. Non a caso, se questo avviene senza troppi traumi negli Stati Uniti o in Canada, dipende dal fatto che sono dei paesi di antica immigrazione. Ecco, noi invece stiamo subendo questo clima. Insomma, il Presidente della Camera due giorni fa ha denunciato politiche vagamente razziste. I valdesi stanno digiunando per solidarietà con gli immigrati, la Chiesa Cattolica si è schierata contro il reato di immigrazione clandestina, il segretario del PD Franceschini denuncia un clima di neo-autoritarismo. Persino il commissario tecnico della nazionale, Lippi, ha detto che questa tessera del tifoso suona da schedatura di massa. Insomma, c'è qualcosa che sta succedendo nel nostro paese e che si traduce poi in alcune normative che tendono ad accanirsi verso i più deboli, che dovrebbe farci un po' riflettere e credo anche preoccupare. Lei ha detto sono paesi di antica immigrazione, riferendosi ad altri, sono anche paesi però a un certo punto che hanno registrato uno spartiacque, cioè all'inizio l'ingresso degli italiani o di emigrati ha generato ovunque le stesse reazioni di paura, timore, razzismo, cliché. Si è deciso di intervenire a livello legislativo sanzionando questi comportamenti e la convivenza civile ne ha tratto dei benefici. Le leggo brevemente una lettera: sono la madre di due bambini italiani, cioè arrivata, non puoi immaginare in che clima viva l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. I miei figli sono italianissimi, così come lo sono io, ma siamo neri. Sono stata adottata da piccola. Ora, trascorsa quest'estate in cui cercavo di spegnere la TV di fronte ai miei bambini, hanno 11 e 7 anni e capiscono benissimo che di colpo devono guardarsi le spalle, mi chiedo che succederà se qualche ragazzino che gioca a calcio con i miei non digerirà un gol o un fallo in questo clima di odio, come già avvenuto ai giardinetti in questi giorni. Gli improperi all'indirizzo dei miei bambini sembravano una rassegna stampa: clandestini, andatevene sul gommone. Sono sicura che Bossi o i vertici del partito della Lega non intendano fisicamente far male ai clandestini, come recita quest'ultimo preoccupante volantino, e tantomeno agli italiani come noi, ma si rendono conto che tipo di messaggi di odio passino nella popolazione, perché la gente poi non va per il sottile, non fa distinzioni tra chi ha il permesso e no, ma se la prende con chiunque sia un po' diverso. Anche le aggressioni e agli omosessuali mi fanno venire i brividi. E le chiedo, magistrato, possibile che i governanti non si rendano conto del peso, della responsabilità delle parole, professor Ainis? Dovrebbero farlo, perché le parole sono pietre, possono diventare dei corpi contundenti. E devo dire che, a torto a ragione, la Lega Nord, vari esponenti della Lega Nord si sono trovati poi, per esempio l'ex sindaco di Treviso, Gentilini, è stato a suo tempo denunciato proprio per delle parole pronunciate, sono sto a ripeterle, contro gli immigrati. Poi succede l'incidente del rimbalzo, come che ha quel gioco lì, rimbalzo il clandestino del figlio di Bossi, poi ne succede quest'altro. Allora diciamo tre coincidenze fanno più che un indizio, no? Però evidentemente se c'è un ricettore politico di questi umori, di questi cattivi umori, il problema sono gli umori più che chi se ne fa in qualche modo portavoce. E quindi la società italiana dovrebbe un po' interrogarsi, nel senso che il razzista non è sempre l'altro. A volte c'è un fondo di razzismo in ciascuno di noi, anche in chi pensa di essere illuminato, civile, eccetera, e poi invece può capitare di avere degli atteggiamenti di fastidio verso il lavavetri, o piuttosto che verso non so chi ti avvicina. Grazie professor Ainis. Michele Ainis, l'avete sentito, è docente di diritto pubblico all'Università Roma 3 ed editorialista della Stampa. Bloccato il video di Iudeca sulla statale 626, la Caltanissetta gela, da diverse centinaia di dimostranti che da ieri sera, per protesta all'inconcepibile morte del giovane centauro di Mazzarino, Filippo Ligambi, deceduto lo scorso giovedì a causa, sembrerebbe, di uno shock emorragico. Il giovane Filippo aveva solo 23 anni e dall'incidente aveva riportato la tranciatura di una gamba. Giunto presso l'ospedale di Mazzarino, non era stato possibile intervenire su Filippo a causa della chiusura delle sale operatorie. Immediatamente trasferito presso il nosocomio Nisseno, Filippo non ce l'ha fatta ugualmente. La rabbia adesso dei genitori, del fratello, degli amici e dell'intera cittadinanza di Mazzarino, che assiste alla morte di un giovane e riflette su come tale fatto poteva succedere a chiunque di loro. La protesta si è fatta sentire anche dinanzi l'ospedale Santo Stefano di Mazzarino, dove il padre di Filippo, nella serata di ieri, insieme ad altre tre persone, si è incatenato. Carte scritte, promesse niente più! Carte scritte! E basta! Non cederemo più! Che vengono altri paesi pure, tutti quelli, tutti di Riesi, Barra Franca, Mazzarino e tutti gli altri paesi dei dintorni che si servono dell'ospedale, che ci sono degli infermieri che lavorano all'ospedale. E avete sentito l'atmosfera, le proteste, il racconto della televisione locale di Caltanissetta, TFN, che ha generato in questi giorni tante reazioni a Mazzarino. Innanzitutto, cosa sta succedendo? I negozi sono ancora chiusi, le strade sono ancora bloccate. Lo chiediamo in diretta al giornalista del Giornale di Sicilia, Paolo Bognani. Paolo Bognani, che stiamo cercando in questo momento di recuperare. Abbiamo parlato anche con l'assessore alla sanità, che ha dichiarato: attenzione, ci sono delle cose che mi amareggiano, la morte di un giovane, come in questo caso in seguito a un incidente stradale, è gravissima, ma non può essere utilizzata per indegne strumentalizzazioni. Quella di Mazzarino è una protesta gravissima, ma non possono essere dette a cittadini cose non vere. Sentiamolo dunque l'assessore Russo. Si sta montando una polemica legata ad un provvedimento, tra l'altro imposto dal piano di rientro, di rimodulazione dei posti letto e di riorganizzazione del sistema. Come dire, a causa di questo provvedimento c'è stata una prima vittima. Questo è davvero indegno e denota scarso senso di responsabilità di chi ricopre cariche istituzionali. Questo povero ragazzo, e mi associo al dolore dei familiari, è morto. La magistratura, ma anche l'ispezione che ho disposto, accerterà se ci sono responsabilità individuali, se sono state utilizzate le migliori procedure come quelle previste per un caso di un politraumatizzato. Si rimbalza questa vicenda tristissima. Il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari è intervenuto, è Leo Luca Orlando, e ha sollecitato l'assessore, che avete sentito, Massimo Russo, a preparare una relazione sulla vicenda della sala operatoria chiusa in questo ospedale a Mazzarino, perché Orlando, con i vicepresidenti Burtone e Brigandi, ha ricordato che da tempo numerosi cittadini e le amministrazioni locali di Mazzarino e degli altri comuni del comprensorio lamentano questa gravissima situazione che si è venuta a determinare a seguito dello smantellamento di fatto delle strutture chirurgiche in previsione della soppressione dell'ospedale, e appare compromesso il diritto alla salute, specie in un caso di incidenti e di emergenze sanitarie come questa. Torniamo dunque a Mazzarino perché siano i protagonisti a raccontarci cosa sta succedendo. Buongiorno a Paolo Bognani, giornalista del Giornale di Sicilia, benvenuto Paolo. Sì, buongiorno. Oggi la protesta si sta materializzando, ci sono negozi chiusi, strade bloccate? I negozi continuano, tra poco chiuderanno, avevano aperto e stanno chiudendo. I blocchi sulla scorrimento si sono pare spostati sull'ingresso dell'autostrada Palermo-Catania. Il dramma. La notizia pare che insomma sia arrivata così. Gruppi di persone sono partiti per l'ingresso dell'autostrada Palermo-Catania. Il dramma di questo ragazzo che ha perso la vita, infatti aveva subito un'amputazione durante un incidente stradale e non ha potuto essere soccorso all'ospedale di Mazzarino, ha dovuto. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso di Mazzarino, dove hanno tamponato parzialmente l'emorragia. La sala operatoria è chiusa, però qui se potevano intervenire, se poi successivamente al trasporto al Santeria di Caltanissette poi è morto eccetera, c'è un'indagine della magistratura e anche due ispezioni dell'assessore Russo che ovviamente faranno luce, noi non possiamo dire alcunché in merito. E questa vicenda drammatica è poi anche significativa di tutta una situazione, infatti il padre del ragazzo ha proprio dichiarato: spero che almeno la morte di mio figlio serva a gettare luce, a cambiare. Continua, pensate, nella stessa provincia l'occupazione del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi. Le puerpere protestano contro la chiusura dell'unità di ginecologia il 19 luglio per la mancanza di medici che erano in ferie, e queste donne hanno annunciato che continueranno il sit-in a tempo indeterminato finché non avranno la certezza della riapertura. Qui a Mazzarino la rivolta, e il padre del ragazzo Giovanni Ligambi si era incatenato all'ospedale di Mazzarino, non è più in quel posto, Paolo. No, è ritornato in casa, ma la denuncia, diciamo, è sempre viva, perché qui il problema che i mazzarinesi pongono in evidenza all'attenzione delle istituzioni è solo uno. Mazzarino, dicono i mazzarinesi, è distante sia da Gela che da Caltanissetta, 40-45 minuti per raggiungere l'uno o l'altro centro dove ci sono delle strutture sanitarie ovviamente più attrezzate. Dicono: il nostro ospedale c'è da 3 secoli, ha salvato tante vite umane, ritengono che un'eventuale modifica giuridica dell'ospedale, in qualche altra cosa, si parla del PTA, non sia una struttura sufficiente a garantire il diritto alla loro salute. Quindi chiedono che rimanga ospedale, dicono i mazzarinesi, anzi venga potenziato. È chiaro però che la Sicilia ha anche bisogno di un piano di razionalizzazione delle spese in ambito sanitario, di tagli degli sprechi, per cui a qualcosa bisogna rinunciare e va segnalato questo, questi ospedali così piccoli non sono sicuri e costano molto. Il problema è che non sono sicuri, costano molto, ma il diritto alla salute della gente, dicono i mazzarinesi, deve essere garantito. Perché come si fa ad arrivare in caso di urgenza, di una milza spappolata, in caso di un infarto serio, come si fa, dicono, ad arrivare a Gelo a Caltanissetta? Dopo 40 minuti rimarremmo vivi? E questo è il dubbio e la domanda che i mazzarinesi si pongono. Grazie, grazie ancora Paolo Bognanni, giornalista del Giornale di Sicilia, oggi nostro ospite. Si conclude una settimana, saluto Peter Bescapè in regia, i coautori dei programmi Flavio Suardi, Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli, Sara Sprafico, e si conclude anche la conduzione di questa trasmissione da parte mia. Ritornerà da lunedì Alessandro Milan. Da Irene Zerbini, buona giornata.